In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. Gossip. Siamo circondati da giornali, rubriche, programmi televisivi, siti, blog di gossip. Ci sono personaggi famosi che vivono di gossip, scrivono sui giornali di gossip. Pensate Barbara D'Urso, Silvana Giacobini, Alfonso Signorini. È stato coniato perfino un neologismo che compare anche nel vocabolario della Treccani, il gossiparo, cioè colui che si compiace del pettegolezzo, del chiacchiericcio, dell'insinuazione. Certo, siamo un po' nell'epoca del nulla cosmico e quindi va per la maggiore il niente, però bisogna sapere distinguere. Un conto è il pettegolezzo. Io per esempio mi vanto di essere un po' pettegolo, se essere pettegolo vuol dire chiacchierare delle debolezze umane rendendo il tutto ironico. Ecco, questo è il pettegolezzo, è un'arte che arriva da secoli fa, mentre invece il gossip è un'altra cosa, è qualcosa che sottintende anche aspetti insomma più crudeli. Intanto, da dove deriva il termine gossip? È una parola composta che viene dall'inglese antico. I termini sono God e Sib, il padrino e la madrina di un bambino da battezzare, perché nell'antichità le riunioni di famiglia, specialmente nei battesimi e nei matrimoni, erano l'occasione per spettegolare tra parenti, per fare uscire anche alcune notizie al di fuori di una famiglia, per creare o per distruggere una reputazione. Ecco, il gossip è proprio questo: creare o distruggere una reputazione all'interno di una cerchia familiare che diventa una cerchia sociale, in questo caso diventa un paese, nel caso dell'Italia per esempio. Insomma, è più di una innocua chiacchiera, più di un pettegolezzo per ridere delle debolezze altrui. E il gossip oggi è una rete importante di connessioni che possono determinare in positivo o in negativo i destini delle persone. Ci sono persone famose sulle quali noi non sappiamo neanche, non abbiamo capito bene neanche che lavoro fanno, che sono diventate famose grazie al gossip. Viceversa, ci sono persone che il lavoro ce l'avevano, magari lo facevano anche bene, che sono state distrutte dal gossip. Bene, noi oggi raccontiamo una storia particolare, una donna che sul gossip ha costruito il suo impero. Non l'ha fatto in un posto qualsiasi, l'ha fatto a Hollywood negli anni 40, 50 e 60, quando Hollywood era l'unico centro del mondo dello star system. La nostra protagonista di oggi è Hedda Hopper, la regina del gossip, che ha fatto tremare tutta Hollywood con le sue terribili cronache mondane. Vediamo come è nata. Salve a tutti, sono Hedda Hopper che vi parla da Hollywood, quel posto favoloso dove tutti vogliono vivere ma dove quasi nessuno riesce a farlo. Hollywood, le cui celebrità sono diventate famose qui e vivono a Beverly Hills, lavorano negli studios e recitano a Palm Springs. E proprio parlando di Palm Springs, l'altro giorno ho deciso di lasciare la frenesia e il rumore di Hollywood per andare a godermi un po' di sole e cercare la pace e la quiete del deserto. Quiet and rest Pace e riposo, avevo detto? Beh, c'è un circo continuo qui a Palm Springs. Parate, bande musicali e un sacco di gente. Tutto quello che volete, eccetto la pace e la quiete. E questa era l'apertura del programma televisivo Edda Hopper's Hollywood, uno dei tanti programmi condotti da Edda Hopper. Lei nel corso di questa carriera di giornalista mondana è stata capace di creare dal nulla un vero e proprio impero, 35 milioni di fan, di follower oggi si direbbe, gente che la seguiva in tutto e per tutto. Lei era potentissima, lei con una sola frase poteva distruggere un matrimonio, una carriera. Dalle colonne delle sue rubriche di pettegolezzi che erano pubblicate sui maggiori giornali dell'epoca, dai suoi programmi radiofonici, televisivi, da quelle colonne veniva decretato un successo strepitoso o una caduta infamante di un attore, di un'attrice, dello star system. Insomma, era una donna implacabile, glaciale, anaffettiva, molto vicina alla politica, ammanicata direi con la politica, apertamente contraria ai comunisti, agli omosessuali, amica dei potenti, amica del famigerato, del terribile Edgar Hoover, il capo dell'FBI di allora. Era una giornalista stravagante, era famosa per i suoi cappellini ridicoli, era capace di coltivare grandi simpatie per chi la coinvolgeva nei suoi segreti e di covare odi profondi per quelli che la snobbavano o per quelli che non le riservavano le esclusive delle loro notizie più scottanti. Edda Farre, questo è il vero nome di Edda Hopper. Lei nasce il 2 maggio dell'85, 1885, a Hollidaysburg, in Pennsylvania. I genitori si chiamano David e Margaret. Grande famiglia, 9 figli, il padre che ha una macelleria, insomma, che lavora sodo, madre è impossibilitata a curarsi della casa e della famiglia perché è quasi sempre è incinta oppure appena partorito, con 9 figli uno dietro l'altro, e funziona così. Insomma, lei, come spesso accadeva in quelle generazioni, Elda deve pensare a cucinare, a lavare, a stirare per i fratelli. Il fratello maggiore curava quelli che arrivavano dopo. Quindi una vita faticosa, poco adatta, questa ragazzina che morde il freno, che non ne può più, che scappa di casa, che va a New York dove c'è un suo zio, Sam, e lo zio fa il missionario. In realtà poco collima il lavoro dello zio con il desiderio della nipote, perché lei va a New York perché vuole fare l'attrice. Lei è attirata dal mondo dello show business. Ecco come inizia la sua prima autobiografia, From Under My Hat, Da sotto il mio cappello, scritta nel 1954. C'era una volta un cugino che aveva 6 dita nelle mani e nei piedi. Era mio cugino. Quando lo vidi, capii che ero entrata nel mondo dello show business e che ci sarei rimasta per sempre. I bambini nel mio quartiere non avevano soldi, ma io ero riuscita a far loro pagare 5 centesimi ogni volta che volevano vedere le 6 dita di mio cugino. Eravamo diventati soci, io e lui. Insomma, abbiamo capito che Elda è una di quelle persone che sa sempre trasformare le situazioni a suo favore. Peraltro lei è molto carina, viso angelico, bionda, occhi grigi, fisico longilineo, alto 1,70 m, che è un'altezza notevole per quell'epoca, sopra la media. Fa un'audizione come ballerina di fila, viene presa nel corpo di ballo di un teatro di Broadway. Lei in realtà non ha mai ballato, però insomma comincia a muoversi in quel mondo. Un grande impresario di allora, Florence Ziegfeld, la definirà Clumsy Cow, che sarebbe una mucca goffa. Insomma, all'inizio sembra che le sue ambizioni di entrare in questi grandi spettacoli siano troncate sul nascere, però lei non si perde d'animo, è una che non molla, riesce a entrare in una compagnia, la compagnia di un idolo delle platee di allora, si chiamava The Wolf Opera, era un attore, un cantante, in quegli anni era famosissimo, le viene offerto un ruolo che inizialmente è quello della ballerina comparsa, al massimo controfigura della protagonista. Lei avrebbe in mente piani più ambiziosi, vorrebbe fare l'attrice, intanto accetta, il vero motivo lo racconterà nella sua prima autobiografia. Per me Wolfie fu qualcosa di speciale, qualcosa di nuovo sotto il sole. La sua grande statura, la sua voce, il suo dono nel raccontare. Fin dal primo momento in cui lo vidi, ne fui affascinata. E io per lui ero una platea nuova. Gli piaceva l'attenzione che avevo per lui. Lo ascoltavo come se le sue parole fossero il verbo divino. Stetti nella sua compagnia per diverse stagioni. Girammo tutto il paese in lungo e in largo. Però c'è poco da fare, lei vuole diventare attrice. Quando viene a sapere che il regista Edgar Selwyn sta facendo il casting per una nuova commedia teatrale, The Country Boy, e lei si precipita nel suo ufficio, gli chiede la parte della protagonista, il regista si mette a ridere, lei non è un'attrice, poi è troppo alta, il protagonista maschile è più basso di lei, lei vuole quella parte, si toglie le scarpe e dice: non sono alta, ho i tacchi. Forse questa sua determinazione, forse il fatto di essere così spiritosa, in qualche modo conquistano il regista, la ingaggia per 35 settimane di tour in 48 paesi diversi. Insomma, possiamo dire che Elda impara a fare l'attrice sul campo, recitando. Ha successo questa sua prima performance e in qualche modo quindi si ricomincia, c'è un secondo ruolo da protagonista, la commedia The Quaker Girl. Lei nel frattempo, peraltro, comincia a ricevere queste lettere da The Wolf Opera, che le scrive, sente la sua mancanza, insomma capisce di essersi innamorato di Elda. I due si sposano in segreto, perché si siamo nel 1913, Elda ha 28 anni, The Wolf ha quasi 30 anni più di lei, è stato sposato molte volte, si è guadagnato il soprannome di marito del paese, del nostro paese. Peraltro il caso vuole, forse non è il caso, chi lo sa, che lui abbia sempre avuto mogli con nomi simili tra di loro: Ella, Nella, Edna, Ida, tutti veramente simili a quello della nostra protagonista. È curioso. E così insomma succede, così come alla gente comune capita di confondere i nomi dei figli, a me succede. Lui invece, per mostrare, come dire, la sua bulimia sentimentale, confonde i nomi delle mogli. A colazione mi chiamava Ida. Ida, mi passi i biscotti, per favore? A pranzo mi chiamava Edna. Edna, ancora un po' di caffè. E a cena ero Ella o Nella, ma mai Elda. A quel tempo non avevo ancora una forte personalità come ce l'ho ora. Questa cosa mi mandava in crisi. Così decisi di cambiare nome. Andai da una numerologa che aveva trovato lo pseudonimo a molti miei colleghi. Lei studiò la mia data di nascita e altri miei numeri e disse che il mio nome doveva essere Edda. Non è poi tanto diverso da Elda, pensai, però Edda Hopper suona bene. Andai a casa e lo dissi a Wolfie. Lui mi sgridò, mi disse che non gli piaceva affatto, ma in meno di una settimana ero diventata Edda per tutti. Da allora non lo sentii mai più chiamarmi Ella o Nella o Edna o Ida. Edda cambia nome anche sui documenti, già che c'è, si toglie anche una decina d'anni, tanto che la sua vera identità rimarrà un mistero fino alla sua morte. Lei e Wolf sono una coppia felice, affiatata. Nel 1915 nasce il loro unico figlio, William Hopper, detto Bill. Bill diventerà poi un attore famoso nella serie televisiva Perry Mason, molto conosciuta ai tempi anche da quelli della mia generazione. Peraltro lui era un investigatore privato. Insomma, ebbe una grande popolarità negli anni 50 e negli anni 60. E nonostante la maternità, lei fa il suo debutto cinematografico poco dopo il parto, nel 1916. Il film si chiama The Battle of Arts, film muto naturalmente, il sonoro arriverà 10 anni dopo, però insomma lei ha raggiunto il suo obiettivo. Lei fin da piccola voleva diventare un'attrice di Hollywood, ce l'ha fatta. Una carriera anche lunga, 30 anni, 141 film tra muto e sonoro, e spesso il suo physique du rôle, diciamo, la porterà a recitare il ruolo della donna di classe, esponente dell'alta società, anche grazie alle sue caratteristiche fisiche e anche a dei modi estremamente eleganti. Hello, Mr. Powell. Ed to you. All right, hello, Ed. How about going out after the show? You don't believe in taking no for an answer, do you? No, and I just don't take yes either. Oh. Ed's, it's a date. Let me see. You forget you showed me this two-headed phony the other night. Okay. I'll tell you what I'll do. I'll leave it to the next gal that comes out of the ladies' room. Blonde or brunette. And it's your pick. All right. I'll take blonde. If it's brunette, you got a date. Arriviamo alla svolta epocale della vita, della carriera di Edda Hopper, il suo colpo d'ala. Siamo nel 1937, lei è una brava attrice di Hollywood, magari non la migliore dell'epoca, non la più famosa, ma una buona outsider, una valida professionista, tutti la conoscono nell'ambiente, lei conosce bene tutti. Non dimentichiamo che è stata la moglie di The Wolf Hopper, mito di quegli anni. Diciamo è stata perché nel frattempo nel 35 lui muore, e nel 37 le viene offerta un'occasione unica: scrivere una rubrica di gossip sul Los Angeles Times. La sua rubrica, dal titolo Edda Hopper Hollywood, vede la luce il 14 febbraio 1938, giorno di San Valentino, ma la accosterei più al massacro di San Valentino che non alla festa degli innamorati. In quell'epoca ci sono già due note figure di giornaliste da gossip. Una si chiama Elsa Maxwell, è famosissima, organizza grandi eventi mondani, combina incontri amorosi. Per esempio c'è quello tra Maria Callas e Aristotele Onassis, quello tra Rita Evori e il principe Ali Khan. L'altra gossipara si chiama Luella Parson, è una sceneggiatrice di Hollywood, peraltro le cui recensioni cinematografiche fecero epoca. Lei diventerà la storica rivale di Edda Hopper. Edda non teme confronti, nei suoi lunghi anni di carriera ha intrecciato relazioni molto intime con i personaggi dello Star System, è dentro all'organizzazione degli studios, conosce tutti, ha ottimi contatti con registi, macchinisti, truccatrici, parrucchiere, riceve da loro racconti in esclusiva, sa come convincere le persone a fidarsi di lei e a rivelarle fatti che dovrebbero rimanere segreti. Il suo primo scoop è del 1939 e lei parte veramente col botto. La persona al centro del gossip si chiama James Roosevelt, è il figlio del presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt. James Roosevelt, il 32enne figlio maggiore del nostro adorato presidente e della nostra favolosa First Lady Eleanor, assistente amministrativo della Samuel Goldwyn Motion Picture Productions di Hollywood, sposato da 9 anni con la filantropa Betsy Maria Cushing di 30 anni, padre di 2 deliziose bambine, Sarah e Kate di 7 e 3 anni, è stato colto in flagrante. La moglie ha scoperto che intrattiene una relazione intima con un'infermiera della Mayo Clinic, Romelle Therese Schneider, 24 anni. Il divorzio appare inevitabile. Eh sì, bisogna stare attenti nella vita. Roosevelt non è attento e arriva puntualmente il divorzio. Lo scandalo è enorme, la rubrica Edda Hopper Hollywood diventa l'articolo di giornale più letto del paese. Lei è una donna terribile, non si lascia intimorire da niente. D'altra parte, insomma, una che parte toccando la famiglia più in vista e più potente di tutti gli Stati Uniti dimostra di non avere paura di nessuno. Hollywood e tutti quelli che gravitano attorno allo star system cominciano a tremare. Edda Hopper non ha intenzione di risparmiare proprio nessuno. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. La nostra protagonista di oggi è la terribile Edda Hopper, regina del gossip negli anni mitici di Hollywood, giornalista stravagante, donna glaciale, implacabile, vicina ai politici, contraria ai comunisti, agli omosessuali, amica dei potenti. Tra i suoi amici c'è anche il famigerato Edgar Hoover, capo dell'FBI. Bene, Edda Hopper è una donna che con una sola frase poteva distruggere un matrimonio o una carriera, e dalle colonne delle sue rubriche di pettegolezzi che uscivano sui maggiori giornali dell'epoca, lei riusciva a decretare il successo strepitoso o la caduta infamante di un attore, di un'attrice dello star system. Edda Hopper è stata veramente la donna che ha fatto tremare Hollywood. E pensate che lei dall'altra parte della barricata c'era stata, perché lei aveva esordito, l'abbiamo raccontato, come attrice di teatro, di cinema muto, aveva sposato il grande divo di Hollywood, The Wolf Hopper, ma adesso siamo arrivati al 37, lei ha 52 anni, è vedova, probabilmente non ha problemi economici, ma in qualche modo si inventa la seconda parte della sua vita. Sì, perché lei conosce tutti a Hollywood, ha gli agganci giusti, riceve le confidenze di quelli che sanno e insomma viene giudicata la persona ideale per tenere una rubrica di gossip sul Los Angeles Times. E il gossip in quegli anni smuove l'interesse della gente, tutti vogliono conoscere i segreti dei divi di Hollywood, sono gli anni dei telefoni bianchi, tutti vogliono sapere di più di persone che tendono a negarsi, perché ricordiamo che insomma in quegli anni intanto non c'erano i social e il divo era inavvicinabile, quindi la gente voleva sapere cose che altrimenti sarebbero rimaste sconosciute a tutti, e lei offre proprio questo. 35 milioni di americani la seguono fedelmente, aspettano con impazienza di conoscere da lei il pettegolezzo del giorno. Pensate, anche Bob Hope raccontava la sua rubrica, era la prima cosa che leggevamo tutti ogni mattina per sapere cosa stesse succedendo. Ascoltate cosa racconta lei nella sua seconda autobiografia, The Whole Truth and Nothing But, tutta la verità e nient'altro, la scriverà nel 1963. Sapevo che Elizabeth Taylor stava per lasciare il marito Eddie Fisher per mettersi con Richard Burton, subito dopo l'inizio delle riprese di Cleopatra a Roma. In 40 anni di Hollywood ho sempre detto la verità, così decisi di dare la notizia. Era il febbraio del 1962, una settimana prima che scoppiasse la bomba sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo. All'epoca Elizabeth, Richard Burton ed io avevamo qualcosa in comune. L'avvocato Martin Gang. Come al solito, lui lesse la mia rubrica prima dell'uscita e corse da me. «Non intenderai davvero pubblicarla, sarebbe molto imbarazzante per me difenderti, dato che io rappresento tutti e tre». Visto che mi trovavo a Hollywood e non a Roma, decisi di seguire il suo suggerimento e aspettai qualche giorno, fin quando non ebbi delle prove concrete di prima mano che mi mettevano al riparo da qualsiasi azione legale, e alla fine pubblicai la notizia. Insomma, avete capito qual è la portata delle notizie di cui viene in possesso Edda Hopper, avete capito che agisce con attenzione, con professionalità, si tutela per non rischiare di essere denunciata, insomma vuole le prove di quello che pubblica, la sua diventa una macchina da guerra, un'organizzazione perfetta con una rete di informatori fedeli, fotografi, i paparazzi che diventeranno i paparazzi poi, fotografi che si appostano per cogliere in flagrante l'oggetto del gossip da pubblicare, investigatori privati che troveranno le prove di quanto lei scrive, insomma stiamo parlando di una professionista, diventa veramente una super azienda dello sputtanamento. Lei sa molto bene quello che deve fare e anche come farlo. I was sleeping gently napping when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. E nel giro di pochissimo tempo dalla nascita della sua prima rubrica, lei ormai è riconosciuta come l'indiscussa regina del gossip hollywoodiano, e allora arrivano i regali di lusso da tutti quelli che vogliono ingraziarsela. Cambia tutto. Peraltro lei arriva a guadagnare cifre tipo $250,000 di allora all'anno, una cifra esorbitante, conduce una vita anche sopra le righe, mantiene la sua villa da vera star a Beverly Hills, la villa che lei ama definire la casa costruita dalla paura, riferendosi ovviamente al timore che i suoi articoli incutevano nell'ambiente. E lei è una donna stravagante, può permetterselo, ha superato i 50, è bella, questo stile trasgressivo, si inventa anche, come dire, un dato distintivo, e lei è particolarmente famosa per i suoi improbabili cappellini, ha una vera e propria collezione, e questi cappellini sono un elemento talmente riconoscibile che ottiene dall'Internal Revenue Service, sarebbe l'agenzia delle entrate del governo, un credito per spese di rappresentanza di $5,000 all'anno. Avete capito bene? Cioè lei detrae dalle tasse $5,000 dell'epoca, che erano tanti soldi, per l'acquisto dei suoi cappellini, perché vengono giudicati, insomma, parte del suo personaggio e quindi del suo lavoro. Beati loro, qua non si può detrarre niente in Italia. Comunque, uno dei gossip più riusciti di Hedda Hopper, la sua frase di apertura di qualsiasi intervista era sempre "Nobody cares of sweetness and lies", a nessuno interessano la dolcezza e la luce, cioè intendeva dire che si aspettava sempre rivelazioni scottanti. Beh, dicevo, uno dei gossip che l'aveva messa per terra proprio in senso fisico riguarda un divo molto amato negli anni 50, Joseph Cotten. Quando scrissi che Joseph Cotten, sposatissimo con la pianista Lenore Kip Lamont, durante le riprese del film Tua per sempre, aveva avuto un love affair con la protagonista, la bellissima attrice Diana Durbin, lui mi telefonò. "Se leggo ancora il mio nome nella tua rubrica", mi disse, "ti prendo a calci nel sedere". E siccome io non ci pensai minimamente a dargli retta, qualche tempo dopo, mentre ci trovavamo ad un evento mondano al Beverly Hills Hotel, proprio nel momento in cui mi stavo per sedere, Joseph Cotten mi tolse la sedia di sotto, facendomi andare a gambe levate. Beh, di certo non gliel'ho perdonata. E insomma, in questo caso va col sedere per terra, in realtà lei si fa molti nemici a Hollywood, viene denunciata spesso dalle vittime dei suoi pettegolezzi. Per esempio, lei avanza l'ipotesi di una relazione omosessuale tra Michael Wilding, famoso attore secondo marito di Elizabeth Taylor, e Stewart Granger, un sex symbol dell'epoca. Wilding la cita per danni in quel caso. Lei per una volta perde addirittura la causa, ma lei in realtà non si occupava solo di fatti di corna, di rapporti omosessuali segreti. Dovete aspettare a ascoltare il resto, perché la regina del gossip di Hollywood diventa una donna che asseconda la sua terribile crudeltà. Lei era una donna molto crudele, era capace di rovinare la vita, la carriera di chi secondo lei non meritava di avere un posto nella mitica Hollywood di quegli anni. Little Miss Tragedy is so misunderstood. She can hear you sniff or whisper about drugs at 100 yards away. And if she gets you cornered, she won't be satisfied. No, she won't. Everything around her just seems to fly apart. Violet's hands, nobody to blame. Nobody but yourself for being pulled in again into the slow drain. Slow drain. Mr. West Coast Dealer, he wants a front for you. Yes, I do, yes, I do. I've been so experienced and all, he knows just what to do. He say you must be tired of the street, my friend. Here's a place for you to rest. Train ya. till he gets your best. Always spotless hand and nobody to blame. Nobody but yourself for being pulled in again into that slow drain. Drain it till you dry. Slow drain. So you're new in town, you wanna meet some fans. Pressing you into doing things. And if they get you cornered, they'll be coming round again, and that's for sure. And everything they touch just seems to waste away. Always spotless hand, nobody to blame. Nobody but yourself for being. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. E il Gabbiano. E il Gabbiano. È da opere apertamente conservatrice, simpatizzante dell'ala più oltranzista del Partito Repubblicano, lei non fa mistero di essere un anticomunista convinta, di essere razzista, di essere omofoba e di essere contro ogni tipo di attività che veniva considerata anti-americana. E bisogna inquadrare anche tutto questo in un periodo storico terribile che era il maccartismo. Questo senatore americano McCarthy che inizia una campagna dissennata verso tutte le persone che avevano sentore di essere comunista, praticamente quello che è successo negli ultimi 30 anni in Italia, al contrario, cioè in Italia c'è un po' il maccartismo verso tutti quelli che non sono di sinistra in un ambiente. Ecco, in America era esattamente il contrario, una cosa terribilmente ingiusta anche quella. Chiunque fosse tacciato di essere anche vicino al mondo, diciamo, di sinistra, veniva emarginato, veniva considerato anti-americano. Ma da opera, l'abbiamo detto, era anche piuttosto razzista. Rimane famosa una sua intervista al grande attore afroamericano Sidney Poitier, e al termine di quell'intervista lei gli dice: beh, adesso che abbiamo finito puoi anche cantare. Lui le aveva risposto che faceva l'attore, non il cantante, e lei gli aveva controrisposto: sei il primo negro che incontro che non sa cantare, tutti quelli della tua razza cantano, lo facevano i vostri avi nelle piantagioni di cotone. Ma il sentimento più forte, più radicato che anima Edda Hopper sicuramente è l'anticomunismo, che la porta a cercare con tutte le sue forze di stroncare la carriera di tutti quelli che fossero anche solo sospettati di essere comunisti, di simpatizzare per i comunisti, come se questo potesse voler dire portare i russi in casa. Lei è una delle figure trainanti dietro alla creazione di quella terribile cosa che fu la Hollywood Blacklist, la lista nera nella quale venivano inseriti tutti i dipendenti degli studios che avevano avuto qualche contatto, magari delle simpatie per il Partito Comunista. Tutti quelli che finivano lì venivano interdetti da qualsiasi tipo di contatto e di lavoro. Una delle vittime più famose, forse la più famosa vittima di Edda Hopper, senza dubbio, è Dalton Trumbo, un noto e pagatissimo sceneggiatore di Hollywood che era iscritto al Partito Comunista, che aveva subito una caccia alle streghe, era stato obbligato a lasciare il paese per alcuni anni, si era trasferito con la famiglia in Messico, una vicenda peraltro raccontata in un bellissimo film, L'ultima parola, la vera storia di Dalton Trumbo, nel 2015, dove Edda Hopper era interpretata dalla bravissima Helen Mirren. Il comunismo non è una minaccia lontana. I suoi proseliti più pericolosi sono qui, a Hollywood. Devono essere schedati e trattati da nemici. Perché il cinema? Perché noi? Perché il nostro lavoro è stare sotto i riflettori. Se ci sbattono in galera diventano famosi. I miei 35 milioni di lettori vogliono che questi traditori siano puniti. Signor Trumbo, è o è mai stato un membro del Partito Comunista? Gli unici che rispondono a una domanda con un sì o un no sono solamente gli stupidi o gli schiavi. Riteniamo l'imputato colpevole delle accuse ascrittegli. I produttori non daranno più lavoro a membri del Partito Comunista. Si vocifera che stia scrivendo sotto falso nome. Non sarà così sciocco, spero. Peraltro Edda Hopper non riuscirà nel suo intento di distruggere la carriera di Dalton Trumbo, perché lui aveva scritto delle meravigliose sceneggiature sotto falso nome. Era stato premiato con l'Oscar per Vacanze Romane. Poi Kirk Douglas coraggiosamente aveva, come dire, rotto l'embargo, gli aveva fatto scrivere Spartacus, diretto da Stanley Kubrick, e questo aveva portato poi Trumbo a firmare anche il soggetto di Exodus di Otto Preminger. Insomma, Trumbo ce la fa, viene reintrodotto ufficialmente nell'ambiente del cinema nel 1960. So when I hear about the hole in the sky, wells in my eyes. Al di là dell'esito della questione Trumbo, il potere di Edda Hopper è incontrastato, il suo peso nelle decisioni dell'industria cinematografica si fa sentire, per esempio nel 1946, quando supporta la candidatura all'Oscar di Joan Crawford. La Crawford era stata inserita nell'elenco di una serie di attori che erano chiamati box office poison, il veleno degli incassi, cioè attori considerati sul viale del tramonto, che non portavano l'equivalente di quello che costavano, insomma attori da evitare. La Crawford però è molto simpatica a Edda Hopper, anche perché ha sempre raccontato le cose a lei e non alla rivale, vi ricordate, ve l'ho detto, Luella Parsons. In qualche modo questo fa sì che la Hopper premi la dedizione, l'amicizia della Crawford, che aveva anche lei una sua rivalità, perché lei era la grande rivale di Bette Davis. E così, quando Joan Crawford viene candidata per il film Il romanzo di Mildred, e peraltro una candidatura molto discussa, Edda muove mari, monti, insomma riesce a farle vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista. Questa sua azione viene considerata il primo esempio di ingerenza nelle decisioni dell'Accademia, dell'Academy of Motion Picture, insomma è la prima che riesce a influenzare l'establishment per favorire un vincitore. Peraltro una delle vittime invece delle ire di Edda Hopper era Ingrid Bergman. All'inizio era una delle sue attrici favorite, aveva caldeggiato la sua scelta come protagonista per il film Per chi suona la campana, oppure per il ruolo di Giovanna d'Arco. Poi però la Bergman commette un grave errore, nega alla Hopper di avere una relazione col regista Roberto Rossellini, nega anche di essere incinta, era una relazione extraconiugale, quindi, come dire, ciccia proprio su cui posare l'interesse. Edda è informata, sa che è tutto vero, chiede a Ingrid l'esclusiva della notizia, lei rifiuta e il rapporto naufraga. Edda Hopper lancia una violenta campagna denigratoria nei confronti della Bergman, la definisce una poco di buono, una ruba mariti, colpevole di avere una relazione clandestina, di portare in grembo il figlio della colpa. Insomma, Edda Hopper era veramente una di quelle persone, e ce ne sono parecchie anche nel nostro mondo oggi, quelle persone che bisognava avere amica, perché se ce l'avevi come nemica eri morto. Redazione del Time, qui Edda Hopper, parlo dalla camera da letto di Norma Desmond. Non perdiamo altro tempo, ti prego, stenografa. Ci sei? Alveggia sulla casa del delitto. Norma Desmond, la famosa stella del muto, è in preda a un terribile collasso psichico. Attorno a lei... di aver ucciso quell'uomo. E questa era proprio lei, Edda Hopper, che interpreta se stessa nel film di Billy Wilder, Il viale del tramonto, con Gloria Swanson, se stessa alla ricerca dell'ennesimo scoop scandalistico. Insomma, la figura di Edda Hopper era sinonimo per tutti di quella tipologia di giornalista d'assalto, una persona capace di trasformare le vite di quelli sui quali puntava la sua attenzione, una donna potente, una donna terribile, insomma, una storia che in qualche modo anticipa i tempi. Cioè, ci sono delle persone nel mondo della comunicazione, e oggi con internet, con i social sono forse ancora più forti, delle persone che in qualche modo possono decretare un successo o possono stroncare una carriera. Ed Hopper muore nel 1966 e quindi non può più tenere in pugno i destini di molti e non può più fare tremare la grande e magica Hollywood. Se volete mandare dei commenti o mandarmi dei pettegolezzi, perché no, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a lunedì. E il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud. Perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili. Proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.